24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui alle 7:21 minuti, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9 e anche su Facebook con la nostra pagina 24 mattino. E allora, di che parliamo oggi nel nostro sondaggio? Parliamo di politica italiana, parliamo di Fini, dei finiani, di Future Libertà che continua a perdere pezzi al Senato. La nostra domanda è secca e semplice: secondo voi l'esperienza politica di Fini rischia già di naufragare? Votate su radio24.it, ci trovate nell'home page bianco o nero, ne parleremo alle 8:30 e da dove iniziamo? Dai giornali in edicola. In primo piano. E ancora la Libia, senza dubbio, a conquistare tutti i titoli delle prime pagine dei giornali. Eni chiude il gasdotto libico, così apre il Sole 24 Ore. Poi l'urlo di Gheddafi, qui fino alla morte, per il Corriere. La sfida di Gheddafi, resto, morirò qui per Repubblica. Resto fino alla morte anche per La Stampa. Chi non sceglie l'apertura... Su Gheddafi sono alcuni quotidiani: Libero, case regalate a Roma, i nomi dei raccomandati, o il Fatto Quotidiano, il governo del fare, corruzione più 30%. Queste sono le uniche aperture, diciamo, dei grandi quotidiani non dedicate alla vicenda Libia. Da cosa voglio partire? A uno di quegli articoli che ci regalano degli spaccati della politica, che, come amo dire io, ci mettono di buon umore fin dalle prime ore del mattino. Lo troviamo sulla Stampa, pagina 15, la firma di Giuseppe Salvaggiulo. Regione Lazio, i consiglieri diventano tutti presidenti. Che cosa succede nella Regione Lazio? C'è il record delle commissioni, mancava solo la commissione a prescindere. Si insedia domani ed è la commissione per sostenere Roma in vista delle Olimpiadi 2020, abbiamo appena sentito in GR Sport. E se la capitale non riesce a presentare la candidatura? Se il comitato olimpico poi assegna i giochi a un'altra città? Poco male, la commissione sopravviverà, a prescindere, come diceva Totò, scrive Giuseppe Salvaggiulo. Ebbene, sono oltre, con queste nuove commissioni che verranno insediate a partire da oggi, si arriva a 20 commissioni per la Regione Lazio. Ci sono stati alcuni emendamenti dei radicali a dire: beh, ma almeno se facciamo questa commissione per sostenere Roma Olimpica, se poi assegnano le Olimpiadi a un'altra città, che si sciolga questa commissione. No, l'emendamento è stato respinto. Ora viene da chiedere: ma perché tutte queste commissioni? Beh, il mistero è presto svelato. L'indotto che ogni commissione garantisce ai consiglieri, che già guadagnano 10.000 euro netti, 900 euro in più al mese per il presidente, cioè 600 euro netti, e poi facoltà di assumere segretari, portaborse da 3 a 5, auto blu di rappresentanza, uffici spaziosi. Insomma, le commissioni danno il potere di avere un po' di soldi in più, un po' di potere in più, qualche auto blu in più. Regione Lazio, i consiglieri diventano tutti presidenti, lo trovate sulla Stampa. Mentre voglio segnalare dal Secolo XIX, a pagina 26, una bufera sull'omosessualità che ha per qualche ora coinvolto un esponente della Chiesa, vale a dire Monsignor Paolo Rigon, che è vicario al Tribunale Ecclesiastico, che nei giorni scorsi ha detto questa frase: si può superare l'omosessualità con la psicoterapia, il nostro consultorio ottiene buoni risultati. È dovuto intervenire il capo della CEI, Monsignor Bagnasco, bacchettata a Monsignor Rigon, convocazione in curia e duro richiamo all'ordine. A pagina 26 del Secolo XIX Bruno Viani racconta di questo retroscena di Monsignor Bagnasco, che intanto ha detto: mi pare che Monsignor Rigon non abbia usato il termine estirpare le tendenze omosessuali come gli è stato attribuito. Però certo, per quanto riguarda questo tema, non tocca a noi dare valutazioni di tipo scientifico, a noi toccano solo quelle di tipo etico. parole, scrive il Secolo, ecclesiali, ma una presa di distanza totale. Significa: tu, Monsignor Rigon, responsabile del Tribunale Ecclesiastico, ti sei permesso di esprimere valutazioni che non competono né a te né alla Chiesa. E per di più lo hai fatto in un contesto dove ogni parola sarebbe stata implicitamente attribuita a me, presidente dei Vescovi Italiani, che già nel 2007 ebbe un precedente misunderstanding col mondo omosessuale e per questo si ritrovò sotto scorta e oggetto di minacce. Dunque questa vicenda che proviene dalla Liguria, con Bagnasco che fa questa bacchettata a Monsignor Rigon, che aveva detto un paio di giorni fa: l'omosessualità si può superare fin da giovani con la psicoterapia. Ci fermiamo per la pubblicità e poi ripartiamo dalla Libia. In primo piano. Come detto, per il secondo giorno consecutivo è la Libia che conquista le prime pagine dei giornali, con quello che le analisi di quello che si può definire, come si può definire, un delirio, il discorso torrenziale, un'ora e 18 minuti che Muammar Gheddafi, che vedo ancora passare in TV, il leader della Libia, ha fatto. Mario Aiello sul Messaggero lo definisce come, sembra, l'Hitler di Charles Chaplin, no? Non ricordate, gli mancava il mappamondo. E che ha detto Gheddafi? Beh, ripulirò questo paese, schiacceremo i ratti che manifestano, i ratti li ha definiti. Finora non abbiamo usato la forza, avete capito? Finora non abbiamo usato la forza, ma lo faremo. E poi le solite cose sul complotto, vogliono rubarci il petrolio, accuse anche all'America, accuse anche all'Italia di aver fornito razzi ai manifestanti. Tanto che ieri Berlusconi ha chiamato Gheddafi. Questo c'è sui vari giornali, 20 minuti al telefono con Berlusconi, così a pagina 3 del Corriere. Pare che sia stato il Dipartimento di Stato americano a fare pressioni al governo italiano a dire: intervenite, perché dovete, visto il canale privilegiato che avete con Gheddafi. 20 minuti di telefonata per il Corriere non è che c'è molto di quanto, non trapela nulla di quanto si siano detti. Beh, certo, Berlusconi invece scrive Repubblica, ha sicuramente voluto smentire una cosa in maniera secca, cioè queste accuse inaccettabili da parte di Gheddafi del fatto che l'Italia abbia fornito razzi o qualsivoglia armamento agli insorti. Durante la telefonata, scrive Vincenzo Nigro su Repubblica, Berlusconi ha voluto proprio smentire queste cose che il leader aveva detto in diretta TV. Non abbiamo dato armi italiane a nessuno in Libia, ha detto Berlusconi a Gheddafi, anche se, fa sapere Repubblica, più che altro è stato Gheddafi soprattutto a parlare. Insomma, non gli erano bastati un'ora e 18 minuti in diretta TV. Berlusconi però ha chiamato per dire, appunto, per mettere questo punto, cioè smentire tutte le accuse. Che dire, ci sono moltissime cronache, i giornalisti anche italiani sono entrati, i vari inviati sono al confine, soprattutto nelle città della Cirenaica, nelle città insorte. I temi che ovviamente comportano e che si legano alla vicenda libica sono, intanto, l'apertura del Sole 24 Ore, la vicenda delle forniture del gas. Sapete che la Libia è uno dei fornitori privilegiati per l'Italia per quel che riguarda l'energia. Eni chiude il gasdotto libico, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Successo che cosa, come racconta Federico Rendina a pagina 3? Rubinetti ufficialmente chiusi per oltre il 10% del gas che importiamo, ufficiosamente chiusi per una quota doppia di petrolio. La domanda è questa: la Libia rischia di mandarci in affanno energetico? Per il petrolio, il mercato spot internazionale, affidato alle petroliere che vanno e vengono cambiando l'itinerario anche all'istante, rende la rassicurazione plausibile per ora. Non così per il sempre più imperante metano, di cui l'Italia è campione mondiale di dipendenza. Quasi tutto il gas che ci arriva corre nei grandi tubi. Nel caso della Libia, attraverso il Green Stream, da 8 miliardi di metri cubi annui, che unisce le coste di Tripoli con Gela in Sicilia, realizzato 5 anni fa dall'Eni, è stato chiuso in progressione dal suo gestore e padrone, appunto, dall'Eni. L'altro grande tema è affrontato in un'intervista dal ministro degli esteri Frattini sul Corriere della Sera, è il tema dell'immigrazione, perché Frattini, in questa intervista ad Alessandra Arachi sul Corriere, dice che si stima un'ondata di 300.000 arrivi, non più il milione che era lo scenario più catastrofico, ma 300.000 arrivi possibili nei prossimi tempi, un'ondata anomala, la definisce Frattini, che per la verità varia tra i 200 e i 300.000, ovvero, tanto per capire, 10 volte il fenomeno dello sbarco degli albanesi negli anni 90. Il Corriere intervista anche Romano Prodi, l'ex premier, lo fa Francesco Alberti a pagina 9, che Romano Prodi dice niente di vergognoso nell'avere sdoganato di fronte all'Europa Gheddafi. Dice Prodi: calma, non c'è dubbio che sia interesse dell'Italia avere buoni rapporti con la Libia, ma esiste anche un altro aspetto, lo stile. La questione più importante è il problema di dignità. Il mio successore, Prodi quindi si riferisce a Berlusconi, è sempre andato oltre, ha cercato lo spettacolo, lo show, ha blandito il Rais. Guardi che però Prodi, Gheddafi, anche lei chiamava fratello. D'accordo, ma quello è un modo arabo di interloquire, tra noi non c'è stato mai servilismo, non c'è stato mai bisogno di andare oltre quello che sono i rapporti che si devono avere quando si rappresenta il proprio paese. La verità, dice Prodi, è che esiste una differenza antropologica tra me e Berlusconi, e anche la lentezza con la quale l'attuale governo ha reagito ai disordini è la conferma dell'intreccio di legami e interessi che si sono venuti a creare. Anche se la vera intervista che il Corriere propone, la più interessante, vi invito davvero, se avete un quarto d'ora di tempo, a leggervela, pagina 13, è l'intervista riproposta, un'intervista che risale al 2 dicembre 79, faccia a faccia il colonnello Gheddafi e Oriana Fallaci. Viene riproposta, ragazzi, che intervista davvero spettacolare. Gheddafi che fa le solite accuse: la colpa è vostra, degli americani, dell'Occidente, sempre voi che ci massacrate. Noi vi abbiamo portato la civiltà, la scienza di cui ora gioite, quella che vi abbiamo insegnato, la medicina con cui vi curate, quella che vi abbiamo dato, l'astronomia, la matematica, la letteratura, l'arte. Un'Oriana Fallaci che risponde colpo su colpo: perché vedo ovunque il suo ritratto? E io che c'entro? Risponde Gheddafi. È il popolo che vuole così, mica posso impedirglielo. Beh, risponde Oriana Fallaci, lei proibisce tante cose, se non può proibire questo culto della sua persona, cosa può fare? Che posso farci? Risponde ancora Gheddafi. Nulla, è che da bambina vedevo la stessa roba per Mussolini, dice Oriana Fallaci. Lei ha detto la medesima cosa a Khomeini. È vero, ancora la Fallaci, ricorro sempre a quel paragone quando intervisto qualcuno che mi ricorda Mussolini. Avete capito la Fallaci a Gheddafi? E poi, colonnello, visto che non si considera un dittatore o un presidente o un ministro, mi spieghi, ma lei che incarico ha? Io sono il leader della rivoluzione, come si vede lei non ha letto il mio libro verde. E sentite qui la Fallaci. Certo che l'ho letto, non ci vuole mica tanto, un quarto d'ora al massimo, è così piccino, il mio portacipria è più grande del suo libretto verde. Lei parla come Sadat. Dice che, insomma, una spettacolare intervista di cui ho letto solo qualche stralcio, Oriana Fallaci, intervista Gheddafi. Oh, devo dire, noi alle 8:20, linee telefoniche permettendo, come abbiamo scritto su Facebook, ci collegheremo con Tripoli, con il vescovo di Tripoli, Monsignor Martinelli, speriamo che le linee ci assistano. E se sarà così, faremo una chiacchierata con Tripoli, per cercare di capire qual è il clima dopo questo delirio in TV di Gheddafi. Venendo alle cose italiane, la politica fa registrare come notizia più importante lo stop netto che il presidente della Repubblica Napolitano ha fatto sul mille proroghe, che doveva essere approvato in via definitiva alla Camera, ma è stato cambiato, come racconta Dino Pesole a pagina 11 sotto il titolo Napolitano mille proroghe alt. Nella versione originaria il testo era composto da 4 articoli, 25 commi. Dopo 50 giorni di esame il Senato l'ha approvato con 5 articoli aggiunti e 196 commi. Una vera e propria rischio di una nuova finanziaria sotto mentite spoglie, tanto che Napolitano ieri, incontrando Berlusconi, che voleva andare a parlare da lui soprattutto per la Libia, si è trovato invece in un faccia a faccia un po' sorprendente con Napolitano, dico io, non c'è sui giornali, ma pare stizzito, cioè come dire, così non si fa, è stato stravolto, cioè l'avvertimento è un mille proroghe così io non posso firmarlo. E a questo punto che cosa succede? Ci sono vari scenari aperti. Stop del colle anche per Repubblica, questo decreto viola la Costituzione. A parte il retroscena politico che fa registrare il disappunto di Berlusconi, questo per La Stampa con Amedeo La Mattina. Il colle mi ostacola mentre mi sto rafforzando. Per il Corriere della Sera l'ipotesi a questo punto è prima di fare un sì, cioè far andare così il mille proroghe, e poi fare una correzione successiva. Secondo retroscena di Repubblica e Francesco Bei, che lo firma a pagina 15, Berlusconi sarebbe tentato ad andare a una vera e propria prova di forza. Il Quirinale lo firmerà così com'è, e quindi non cambiare il mille proroghe, perché ha fatto sapere Berlusconi, Napolitano mi ha fatto capire che metterà la sua firma, il patto è questo, sarà l'ultima volta, ma lo farà, quindi possiamo andare avanti. C'è anche Giulio Tremonti preoccupato, perché dice abbiamo compiuto un miracolo, un mille proroghe che ci è costato solo 70-80 milioni di euro, ci espone a rischio una nuova riscrittura dell'assalto alla diligenza, anche se il Sole 24 Ore fa sapere che con queste modifiche richieste da Napolitano rischiano di saltare alcune norme previste nel mille proroghe, la tassa di un euro sul cinema per esempio, un euro sui biglietti in più. La sanatoria sui manifesti elettorali, magari, se così vado a fare la ola di giubilo davanti al Quirinale, ve lo prometto. Se salta, grazie all'intervento di Napolitano, questo emendamento che prevede una sanatoria per i manifesti abusivi, per i quali i partiti dovrebbero pagare 100 milioni di euro, invece con 1000 euro a ogni provincia dove ci sono le affissioni abusive, che è un classico durante le campagne elettorali, si sono fatti una bella sanatoria con un emendamento bipartisan di due senatori, uno del PD e uno del PDL, potrebbe saltare questa norma, viste le richieste dichiaramenti da parte di Napolitano. Staremo a vedere se la ola davanti al Quirinale si può fare. Come dire, di politica parliamo anche nel nostro sondaggio, è la vicenda dei Finiani. I titoli sono un po' ovunque. Finiani, via il capogruppo al Senato, anche Saia. O Saia ha lasciato i Finiani. Secondo Repubblica anche Ronchi è vicino all'addio. E Adolfo Urso, chi lo sa? È il tema del nostro sondaggio. I Finiani, Future Libertà, secondo voi è un'esperienza già naufragata? Questo vi chiediamo. C'è Repubblica che parla di un Gianfranco Fini che si chiude nel bunker, non è più il tempo dei ripensamenti, un Gianfranco Fini sempre più scuro in volto, limita le uscite pubbliche. Ma la battuta più straordinaria è di questo Saia che esce, 52 anni, vedendo tanti giornalisti in attesa per capire dove andranno i Finiani, lui che era un Finiano esce dalla riunione e dice ai giornalisti: ma con tutti i problemi che ci sono, vi occupate di quattro disperati? Il traffico. In primo piano. Voglio prendere in mano il giornale, da una parte Il Fatto Quotidiano, che si battibeccano, si rinfacciano qualche articolo. Beh, intanto sul giornale in prima pagina c'è questa notizia. Il partito dell'odio, sapete che già ieri il giornale ha scritto sul Fatto Quotidiano, fanno dei sondaggi che istigano all'odio. E ora c'è questo articolo in prima pagina del giornale, i giudici lenti salvano Travaglio. E beh, questo è un tema, un articolo interessante per tutti coloro che sono travaglini o non travaglini. Luca Fazzo lo firma a pagina 6, il giudice Lumaca salva Travaglio, cade la condanna per diffamazione. Il presidente di sezione della Corte d'Appello di Roma, Afro Maisto, ci ha pensato a lungo, così a lungo che pensa e ripensa. Il reato è caduto in prescrizione. Il processo era di quelli che a un magistrato scrupoloso tolgono il sonno. Da una parte Cesare Previti, dall'altra Marco Travaglio. Previti era ruolo di parte lesa, ovvero di vittima. Travaglio, quello di imputato, per aver scritto sull'Espresso della presenza di Previti a un summit nello studio di un altro avvocato eccellente, Taormina, per depistare le indagini per mafia su Marcello Dell'Utri. In primo grado a Travaglio era andata male, 8 mesi di carcere. Poi in appello la pena era stata notevolmente ridotta, una multa a 1000 euro. Però cosa è successo? Il giudice che doveva scrivere le motivazioni, depositare come al solito le motivazioni della sentenza, dell'appello, ha impiegato un anno per motivare la sentenza, termini scaduti, e quindi il reato è andato in prescrizione, sentenza definitiva, non ci sarà più ricorso in Cassazione. Mentre il tempo scorreva per scrivere le motivazioni di questa sentenza, il giornale è molto ironico, dice deve essere stata una sentenza molto complessa da scrivere, il reato si è prescritto, finisce l'articolo di Luca Fazzo, la prescrizione ha inghiottito tutto, ridacchia travaglio. Che posso farci? Succede, capita nelle migliori famiglie. Il giudice Lumaca salva travaglio, cade la condanna per diffamazione. E anche sul Fatto Quotidiano invece scrivono di come il giornale si inventa queste campagne d'odio che al Fatto Quotidiano scrivono non facciamo assolutamente. Vabbè, insomma, un battibecco tra giornali. C'è ancora molto della vicenda Affittopoli a Milano, che ora, secondo Libero, che la mette in prima pagina, d'altronde è una campagna che Libero sta portando avanti da giorni, si allarga anche a Roma. Case regalate a Roma, i nomi dei raccomandati. È la nuova Affittopoli. Intanto, eccolo qui, poi a pagina 5, in questo caso sono i furbetti delle case dell'Enasarco, l'ente di previdenza degli agenti di commercio, che ha un patrimonio immobiliare di 273 complessi, e in questo patrimonio immobiliare ci sono degli inquilini eccellenti. Un po' di nomi scrive Libero a pagina 5, li ha tirati in ballo il Fatto Quotidiano e il Corriere della Sera. Elenchi lunghi, da Pio Pompa, collaboratore del Sismi finito sotto inchiesta, 165 metri quadri in via dei Giorgofili 123 a 698 euro d'affitto. Luciano Gaucci, altri 168 metri quadri al piano di sotto, 700 euro. Oppure Roberto Castelli, attualmente viceministro alle infrastrutture, esponente della Lega, 96 metri quadri a Monteverde, 750 euro con spese, come Castelli osservò a suo tempo. Prezzi di mercato, poi il colpo di scena, prevedendo l'ennesima montatura, il vice ministro proprio oggi, cioè ieri, ha firmato la disdetta del contratto. E poi Libero ricorda altri inquilini eccellenti: Elio Vito del PDL alla Farnesina, Girolamo Sirchia sulla Nomentana, Mario Palombo al Portuense, Benedetto Adragna del PD della Vittoria, vicino a Donato Bonanni, figlio del leader della CISL. Nomi in realtà che sono rispolverati dal passato. Vito, Elio Vito non ci sta, raggiunto al telefono spiega: sì, abito ancora nella casa dell'Enasarco, ma il mio caso è tutto diverso. Sì, i casi sono ognuno diversi, anche se vince clamorosamente per la, qualcuno potrebbe dire, sfacciataggine all'intervista di Fabio Nitti, che è direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, intervistato da Repubblica dopo che i vertici del Pio Albergo Trivulzio si sono dimessi, denunciando una gogna mediatica un po' inspiegabile. Il direttore generale Fabio Nitti invece dice: rimango qui al Pio Albergo Trivulzio, non ho nulla di cui vergognarmi, le case se le aggiudica chi ha i requisiti e sa dell'esistenza dei bandi, noi pubblichiamo le offerte sul sito web, sull'albo pretorio, non abbiamo soldi per fare annunci sui giornali. Sono qui da poco, non mi ero mai preoccupato di leggere le liste dei nomi. Negli elenchi non vedo privilegi. Semmai ci sono singoli casi particolari, sempre nel rispetto delle regole. Tanto che Repubblica dice: scusi, prego, nelle case che affittiamo a canone concordato con i sindacati e quindi più basso, vivono anche ex orfani, sfrattati. E comunque ogni caso fa specie a sé. C'è chi è subentrato alla nonna in un vecchio contratto, chi vive in una casa da sempre. E alla domanda: mai pensato di dimettersi? Non vedo perché dovrei farlo. Sono sereno, non ho paura. Aspetto la magistratura. Questo è il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio. Ho solo tempo per segnalare in chiusura che, secondo il Fatto Quotidiano, il direttore generale della RAI, Mauro Masi, è ormai stato abbandonato da tutti. L'articolo di Carlo Tecce a pagina 7, fine pena Masi, dopo le scivolate di Sanremo il direttore generale dovrà lasciare, e secondo il Fatto Quotidiano già si vociferano le possibili sostituzioni. Una sostituzione potrebbe essere interna, quella della Lei, che già è alla RAI, dirigente della RAI. La seconda soluzione è quella di Vincenzo Novari, amministratore delegato di Tre Italia. Questo secondo il Fatto Quotidiano. Ma come dire, ci dobbiamo fermare qui con le segnalazioni della rassegna stampa. Io vi ricordo che il nostro sondaggio parla dei finiani, i finiani in difficoltà. Secondo voi l'esperienza politica di Fini è già naufragata? Questo ci chiediamo. E ripartiamo dall'intervista, sempre se le linee telefoniche ci assisteranno, col vescovo di Tripoli, tra poco. 24 mattino. L'intervista. Sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan per la nostra intervista. Lo voglio ringraziare immensamente perché so che sono momenti concitati, si è liberato pochi minuti per noi. Da Tripoli, dove le linee telefoniche ci assistono, Monsignor Giovanni Innocenzo Martinelli è il Vescovo di Tripoli. Monsignore, buongiorno. Buongiorno. Senta, intanto il discorso di ieri del leader libico Muammar Gheddafi, le chiedo, non è un discorso conciliante? Avete timore che possa presagire al peggio? Guardi, io non sono in grado di giudicare il futuro, ma certamente è stato un discorso abbastanza forte per cercare di, in questa forma, di riconciliare un po' le parti. È un'offesa un po' che ha risentito da parte del suo popolo in questo momento delicato, e lui ha richiamato all'unità e alla pace un po' tutte le parti, perché la storia della Libia non si confonda attraverso le spinte del fondamentalismo. Però ha anche usato e anche parlato, insomma, della forza, dell'uso della forza, e per questo dico, com'è la situazione? Cioè, temete che... Attualmente oggi la mattinata è abbastanza tranquilla, stamattina sono uscito per la Santa Messa per le religiose e ho fatto in giro, la strada è tranquilla, non ci sono mezzi, in mattinata di solito non ci sono difficoltà particolari, di solito è la sera, la notte che ci sono magari spari o qualche problema di avviamento. Le chiedo, Monsignore, ma Gheddafi, qual è il reale controllo da parte di Gheddafi sulla Libia in questo momento? Guarda, io non sono un esperto adesso in questo momento sulla situazione particolare del leader. Noi sappiamo che è un po' la zona est della Libia è un po' scappato un po' al controllo, ma almeno questa qui, la parte di Tripoli, ancora sembra sotto controllo, quindi lui vuole ad ogni costo ritrovare e richiamare all'unità tutte le parti, anche la parte dell'est. Ecco, è una forza, è una parola forte a tutti quanti perché possono ritornare all'unità del paese. Si è parlato di rischio islamizzazione, ecco, le chiedo a lei, insomma, come esponente della Chiesa Cattolica, Vescovo di Tripoli, se c'è questo timore. Guardi, come Chiesa fino adesso, grazie a Dio, non abbiamo avuto nessuna difficoltà, nessun problema particolare, sia per quello che può riguardare Tripoli come Chiesa, come comunità, sia nella zona di Bengasi, fino a Tobruk, dove ci sono diverse comunità religiose che operano negli ospedali. Non ci sono minimamente difficoltà per le suore, per il servizio che operano negli ospedali, anzi direi che c'è un'assistenza diretta, protezione da parte dei libici amici che conoscono bene il servizio importante e delicato delle suore. Monsignor Martinelli, 10 giorni fa era prevedibile una situazione del genere? Assolutamente no. E che è successo? È stato tutta una cosa improvvisa, che ci siamo noi stessi meravigliati come potesse accadere tutto questo. Io non so dare una spiegazione, forse è mancato per conto mio un reciproco ascolto perché le parti in causa potessero ritrovare una riconciliazione anche in questo momento delicato. Ma per concludere, non è che dopo 42 anni la gente chiede più democrazia, voglio dire, in un paese dove la democrazia... Io penso che ci sia una forma, uno scatto di qualità anche della popolazione, del paese, un desiderio soprattutto da parte dei giovani di avere e di partecipare a quello che un po' il paese gode. Questo Gheddafi forse lo vuole dare e sono sicuro che c'è la volontà di farlo, però a questo punto non so fino a che punto si potrà riuscire a riconciliare le parti. E infatti, nel concludere, lo so che lei non è il suo lavoro, è il suo mestiere, ma secondo lei siamo alla fine del regime di Gheddafi? Ma io non penso che sia, perché dalle sue parole, anche alla sua resistenza abbastanza forte, ha dato l'impressione di andare fino all'ultimo, quindi io credo che ci sarà ancora uno spazio. La ringrazio ovviamente, buona giornata, so che insomma tanti auguri, buon lavoro. Tanti grazie. Auguri più a voi, insomma, ne avete più bisogno. Grazie a Monsignor Giovanni Innocenzo Martinelli, Vescovo di Tripoli. Tiro anche un sospiro di sollievo, perché sapete, voi non lo sapete quello che succede prima di andare in diretta, ma insomma 30 secondi prima di andare in onda la linea non prendeva, non... E vabbè, insomma, ci ha raccontato questa testimonianza che spero preziosa da Tripoli, il vescovo. Intanto noi ci fermiamo per la pubblicità e poi parliamo di cose nostre, di politica nostra, di fini, dei finiani, di future libertà, che scrivono i giornali si sgretola, perde pezzi, Fini viene definito come asserragliato un po' nel bunker, un po' ombroso, a dire ma dove andiamo, che facciamo? E quello che vi chiediamo nel nostro sondaggio di politica interna, tanto di Libia tornerà a parlare anche Oscar Giannino alle 9, è questo. Ma l'avventura politica di Fini, secondo voi, è già finita, è già naufragata, è già in grave difficoltà? Questo è il tema del nostro sondaggio. Votate su radio24.it oppure 800 24 0024 se volete intervenire tra poco in diretta. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:33 minuti, parliamo di politica nel nostro sondaggio, parliamo di Fini, parliamo dei finiani, di future libertà e ci poniamo questa domanda. Ma secondo voi l'esperienza di Fini, l'esperienza politica, l'esperienza di future libertà è già naufragata? Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Insomma, leggere le cronache dei giornali, ieri il capogruppo al Senato Viespoli lascia il partito, con lui anche il senatore Maurizio Saia, sono rimasti in 6 di senatori, ma oggi i giornali parlano, per esempio Repubblica, anche la stampa di Ronchi che potrebbe lanciare, la stampa dice Ronchi vicino all'addio, Urso in silenzio da giorni ma dovrebbe restare, però insomma la situazione certo è di una situazione un po' complicata. Ne vogliamo parlare con l'onorevole Flavia Perina, buongiorno, di Future Libertà, è direttore anche del Secolo d'Italia, anzi molti ci chiedono, Perina, ma la cacciano dal Secolo, la cacciano in maniera, prendono le sue difese, su Facebook per esempio molti ci hanno scritto, chiedeteli subito, ma la cacciano o la tengono al Secolo d'Italia? Ma ieri c'è stata una prima riunione del CDA, non hanno fatto comunicati, non hanno scoperto le carte, non hanno detto decisioni, aspettiamo e vediamo. Aspettiamo. Saluto anche Mario Sechi, direttore del Tempo. Mario Sechi, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, so che l'analisi di Sechi è sotto gli occhi di tutti che l'esperienza di Fini è naufragata. È così, direttore? Se è così, perché? Sì, ma è naufragata per un motivo molto, molto serio. Perché l'idea di destra, perché questo nelle intenzioni voleva essere, di Fini semplicemente non esiste. Non esiste nel momento in cui parliamo di una destra confusa, cioè di una destra che abbandona quello che era il triangolo classico delle destre in tutta Europa, Dio, patria, famiglia, e si avventura in una sorta di terra sconosciuta dove si mischiano i miti della destra, e i miti in politica contano, vi assicuro, con quelli della sinistra. E a un certo punto qualcuno comincia a chiedersi, ragazzi, che cosa stiamo facendo? Mm. E quei qualcuno sono quei deputati che hanno detto... Non solo i deputati, questo effetto poi lo vedremo anche nell'urna quando si voterà, cioè a fronte di progetti culturali confusi, alla fine in politica risultano poi sempre delle reazioni, no? E in Parlamento si è già vista un paradosso pazzesco, cioè io non ho mai visto un congresso fondativo che si risolve, ahimè, per Future Libertà in congresso affondativo. Cioè, dopo il congresso hanno perso il gruppo al Senato, e questo è incredibile. Sì, erano in 10, il gruppo al Senato ci vogliono 10 senatori, adesso prima è andato via uno, sono andati in 9, adesso sono andati via in 2. È incredibile, queste cose possono accadere quando si apre una crisi latente, magari anche dall'inizio e così via, ma quando si apre una crisi dopo mesi, non quando tu c'eri più in congresso, Lancio Invest a parti per rifare l'Italia e poi non riesce a rifare neanche il gruppo, sì, al Senato. Sì. No, ma infatti quello che ha colpito, vorrei dall'onorevole Perina cercare di capire qual è il momento, un momento che lo stesso Fini ha proprio sulle colonne del Secolo d'Italia qualche giorno fa ha confessato essere un momento, il momento di più grande difficoltà di Futura Libertà, e le accuse insomma che fa anche Secchi di un progetto un po' culturale, una sorta di guazzabuglio in cui non si capisce bene destra e sinistra mischiati, miti un po' mischiati. Ma onorevole Perina, qual è la situazione di difficoltà? Questo almeno ce lo può confermare. No, ma la situazione è di difficoltà nei gruppi, ma vede, la proposta di Futuro e Libertà, se è riuscita o se è fallita, lo decideranno gli elettori quando si andrà a votare. Il progetto, questa idea del progetto confuso che viene, per carità, legittimamente elaborata da chi ovviamente tende a sostenere l'attuale centrodestra e a contestare la possibilità di un centrodestra diverso, di un centrodestra alternativo che recuperi un po' quelle che erano le ragioni fondative del PDL. Questo tipo di contestazione, per carità, è perfettamente legittima, ma non corrisponde assolutamente alla realtà. Cosa vogliamo dire? Che l'attuale centrodestra, l'attuale destra berlusconiana interpreta le categorie di Dio, padre e famiglia. Berlusconi è stato delegittimato dai vescovi. Sul tema della patria abbiamo una maggioranza che non si è messa d'accordo neanche sulla celebrazione della festa dell'unità nazionale, e all'ultimo forum sulla famiglia il Presidente del Consiglio non ha potuto aprire i lavori perché era nel pieno dello scandalo Ruby e i titolari delle associazioni delle famiglie hanno ritenuto che fosse bene che non parlasse. Quindi francamente sostenere che la destra attuale, la destra del PDL, è una destra tradizionale che interpreta queste categorie e la nuova destra di Fini è confusa in quanto a questo, mi sembra che abbia una scarsa attinenza nella realtà. Dopodiché in tutta Europa noi sappiamo che esistono destre differenti, capaci di parlare di diritti e anche di garantismo a tutto campo, non soltanto relativamente alle leadership o ai potenti, capaci di parlare, di elaborare temi sul rispetto delle donne, sul rispetto delle regole, sul rispetto della Costituzione, della legalità. La destra in tutta Europa è un'altra cosa, sì, rispetto in Italia. Poi gli elettori decideranno, e questo sicuramente tra un mese o fra un anno, fra due anni, se Fini è finito o meno. Il voto sempre, no, ma è chiaro. Però le chiedo questo, perché entriamo, come si suol dire, con i piedi nel piatto sulla vicenda di questi deputati o senatori che se ne vanno, perché l'accusa la fa fatta lo stesso presidente Fini in maniera neanche tanto velata, e io la metto così, lui non l'ha messa così, ma tutti la mettono così: Berlusconi se li è comprati. Allora oggi sul Corriere della Sera c'è un retroscena legato a Denis Verdini, che dice uno sporco lavoro ma qualcuno lo deve pur fare, cioè di colui che sta cercando di convincere a tornare nel PDL o comunque a lasciare i Finiani, e un Verdini che dice il Corriere della Sera si sarebbe detto anche al Cavaliere disgustato per le richieste ricevute in cambio di un passaggio, un voto, un annuncio, un qualcosa. Insomma, glielo chiedo, onorevole Perina, questi parlamentari sono comprati, tra virgolette, in qualche modo, e come? Ma guardi, io le faccio il mio esempio personale, non voglio parlare delle situazioni di altri perché non le conosco e questo retroscena ne apprendo adesso da lei. Il mio esempio personale: io tengo moltissimo al mio posto di direttore del Secolo d'Italia, è un lavoro nel quale mi sono impegnata tantissimo. Negli ultimi 4 anni ho lavorato gratuitamente a una ristrutturazione di questo giornale, perché è una testata storica della destra italiana, cioè ha 55 anni, non meritava di morire, eccetera. Se io immagino mi fossi allineata alle posizioni della maggioranza, il mio posto di lavoro al momento non sarebbe a rischio. Io sarei stata nell'ultimo mese nelle condizioni di trovare un accordo dicendo io voglio salvaguardare questo mio ruolo, questa realtà anche degli altri colleghi professionali. Io credo che se avessi dato rassicurazioni, ad esempio, su un cambio di linea politica, questa polemica non esisterebbe. Ora, tecnicamente, questo che cos'è? Comprare, vendere? Non lo so. So che è una forma di pressione che a tutti noi è molto ben evidente, per cui le idee, i voti, le convinzioni, le cose che si dicono possono essere barattati con posizioni a cui ciascuno tiene. Direttore Secchi, è comprare, promettere, che ne so, un posto da sottosegretario se c'è un rimpasto, oppure dire torna con noi se si va alle urne ti ricandido, oppure è politica? È politica, non ci sono dubbi, è da sempre così, è sempre e sarà così finché esiste una cosa che si chiama Parlamento, finché esiste una cosa che si chiama governo, finché esiste una cosa che si chiama elezione. Cioè, da qualche parte ti devi candidare, è da qualche parte che ci sia questo sistema elettorale o che ce ne sia un altro, qualcuno ti deve mettere in lista. O pensate che quando c'erano le preferenze entravi in lista per volontà dello Spirito Santo, o forse per volontà dei segretari di partito? Ma stiamo scherzando? Ci stiamo raccontando delle balle in diretta? Cioè, qualcuno non ha esperienza della politica degli ultimi però la, la denuncia di Fini, che gli rinfreschiamo la memoria. No, però la denuncia di Fini è stata molto forte, cioè sulle colonne del Secolo d'Italia. Fini ha detto... nominato tutti i suoi parlamentari nell'ultima tornata elettorale. Sì, però ha parlato di pressione mediatica e finanziaria del premier. Ma Fini ha ricevuto nel suo ufficio alla Camera un senatore che doveva passare nel suo schieramento, ma ve lo ricordate, facciamo il nome e cognome, poi non l'ha fatto. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma siamo seri? Ma queste sono balle che raccontiamo ai nostri ascoltatori. Poi cioè, io devo dire, c'è la anche... La politica è questo. C'è anche quando lo smarrimento. L'onorevole Perina, sì. che Berlusconi non è di destra. Berlusconi non è mai stata la destra in Italia. Berlusconi è berlusconiano, che è un'altra cosa. Berlusconi è Berlusconi, sì, Berlusconi è berlusconiano, Berlusconi fa Berlusconi, cioè non è che fa il grande statista della destra. Berlusconi fa Berlusconi ed è per quello che ha vinto le elezioni finora. Poi c'è anche un po' lo smarrimento di molti ascoltatori, non so, di alcuni casi. Io non so, l'onorevole Barbareschi, per esempio, che alla convention che ha fondato il partito Futura Libertà, in lacrime mentre leggeva il manifesto di Futura Libertà, poi vado, non vado, esco, ritorno, torno, poi adesso è uscito da Futura Libertà, però dice forse lascio la politica perché posso vivere di altro. Ecco, anche di fronte a questo la gente fatica un po' a capire. Ma intanto voglio sentire qualche ascoltatore. Massimo da Catania, buongiorno. Buongiorno Massimo, ha detto che il 63%, non l'ho ancora detto, per il momento dice sì, l'esperienza di Fini ci pare naufragata. Questo nel nostro sondaggio. Massimo. Sì, sì, è vero. È vero anche perché... Lei dice è vero. Sì, perché le persone si giudicano anche per chi frequentano. E se frequentano delle persone e che non frequenta? Hanno niente... E chi frequenta? Frequenta il signor Berlusconi e tutto il Parlamento, che è un Parlamento finto. Beh, ma adesso non lo frequenta più, pare, Fini, Berlusconi, secondo questa logica. Ha votato decine e decine di leggi su sua persona per fargli passare indenne dei processi, per cui non è... Ah, lei dice non si può smarcare così, cioè diciamo rinnegare quello che ha fatto a fianco di Berlusconi. Bisogna tornare al nuovo. Io alle persone che sono ospiti da lei, deve parlare, sono vecchie. Ma dove lo vede lei il nuovo? Scusi, ne vede di nuovo? Il nuovo è nella persona che va a lavorare la mattina. Ah, l'uomo qualunque. Non l'uomo quelli qualunque. Che fanno rimpasti, i posti è giusto, è politica, questo è fango, non è politica. Lei chi vota? Beppe Grillo? No. Guardi, io Beppe Grillo per certi versi sono d'accordo con lui, per altri no. Va bene. Siamo in un paese libero, quindi ci mancherebbe. Per tante cose ha ragione, perché effettivamente qua nei discorsi che fate voi manca soltanto un piccolo elemento. Sì. Il popolo, dov'è? Il popolo, l'uomo, la rivincita dell'uomo qualunque, grazie. No, il popolo va a votare, insomma. Grazie Massimo, però bello il suo intervento. Ci fermiamo per le informazioni sul traffico, riparto poi da Fulvio da Roma, qualche ascoltatore e ancora i nostri ospiti. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero. E allora, Fulvio da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Allora, io volevo un po' sottolineare un po' l'ipocrisia di Fini, perché come giustamente diceva il precedente dell'ascoltatore, insomma, ha appoggiato Berlusconi per un sacco di tempo, poi... per l'opportunità politica, insomma, pensando che forse Berlusconi aveva finito a livello la sua carriera politica, insomma l'ha completamente abbandonato. Però io dico, Fulvio, con questo metro quanti politici hanno cambiato idea? Ecco, poi sì, qualcuno li chiama volta gabbana in maniera spregiativa, sì. Qualcuno dice si cambia idea, si fa un'evoluzione di un percorso politico, lo chiami come vuole. Ma Fini avrebbe dovuto comunque sapere quello che sta facendo, cioè votare leggi a favore di Berlusconi. Cioè, non penso, io penso anche, che Parlamento... anche Casini stava con Berlusconi, no, Casini, adesso non sta qui sì, con però Berlusconi. Casini è stato poi un certo momento è stato coerente perché sì. Ha deciso di non entrare certo, nel governo. Quando hanno fatto il PDL lui ha detto no, io in questo partito sì, non lì, lui è stato molto molto coerente, a differenza di Fini, il quale io sinceramente penso che lì in Parlamento sapevano di eventuali festini, sì, di Berlusconi. Allora non si può appoggiare un personaggio che per il quale, del quale si conoscono certe cose e poi da un momento all'altro insomma abbandonato. No, ma è molto chiaro. No, molto chiaro, Fulvio. Voglio sentire da onorevole Perina un paio di risposte, sia a Secchi che dice non è comprare, è politica questa di passare, insomma, di promettere, di farsi candidare, di promettere anche posti di governo, e poi risponde agli ascoltatori che imputano a Fini un po' una mancanza di coerenza, mi sembra di dire, politica in questi anni. Sulla questione di Secchi mi sembra che risponde bene Verdini quando racconta di richieste che hanno anche un loro valore economico e quindi mi sembra che, ecco, il diretto interessato, la persona che sta svolgendo le trattative, ci parla effettivamente. Cioè, è un retroscena, cioè il Corriere parlerebbe di questo disgusto. Il Corriere sono sempre molto bene informati e generalmente corrispondono alla realtà. Quanto agli ascoltatori è molto interessante invece sia quello che dice Massimo sia quello che dice Fulvio, perché loro praticamente sostengono che Gianfranco Fini, che l'errore di Gianfranco Fini è stato quello di non smarcarsi prima dal berlusconismo, di non capire prima la natura di Berlusconi nel momento in cui ci ha cofondato un partito, perché non dimentichiamo che noi fino a 2 anni fa Alleanza Nazionale era comunque un partito autonomo, aveva un'alleanza con Berlusconi che ha vissuto anche dei momenti di tensione, dei momenti in cui questa alleanza... Cioè, lì imputano forse le famosa battuta Sciama alle comiche finali e poi è entrata nel PDL. Si gestiva il suo partito, noi avevamo un nostro partito con un rapporto politico con l'alleato del PDL del quale riuscivamo anche a condizionare alcune scelte, mentre invece tutto è cambiato nel momento in cui siamo entrati nel PDL. Il punto è quello che tutti noi, io per prima, perché l'ho scritto, l'ho detto, ci abbiamo creduto alla possibilità di un grande partito di tipo europeo dove le nostre posizioni avrebbero potuto contaminare e contagiare positivamente il partito e riequilibrare il rapporto del PDL con la Lega e quindi creare un autentico centrodestra europeo nella prospettiva poi della successione a Berlusconi, come è ovvio, perché poi comunque era un ciclo durato 15 anni e si immaginava comunque che questo ciclo dovesse finire, dovesse nascere qualcosa di nuovo. È stato un calcolo politico probabilmente sbagliato, lo vediamo dai risultati, perché abbiamo cercato di dire che pensavamo, siamo stati prima messi all'indice e poi cacciati. E poi espulsi. La lettura di Marco da Bergamo che ci ha chiamato. Marco, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io sulla questione del progetto politico di Fini la penso come la dottoressa Perina, nel senso che credo che solo gli elettori alle prossime elezioni potranno dire se Fini come politicamente il suo gruppo potrà continuare poi, o meno. Gli elettori se votano, quello è il... Esatto, perché in questo momento secondo me, e concordo ancora con l'avvocato con la dottoressa Perina, l'operazione di uscita di questi senatori, deputati, da FLI a PDL o il gruppo responsabile, è solo un'operazione di acquisto, compravendita di senatori e deputati da parte del gruppo del PDL. Non è politica. Mi tantissimo, perché lo apprezzo molto, il dottor Secchi, che dice che questo è la normalità della politica. Perché se questa è la normalità della politica, credo che a questo punto non solo la moralità della politica molto bassa, ma anche quella degli italiani molto bassa. Interessante. Direttore Secchi, qua c'è l'uomo qualunque che prima voleva trionfare, dire manca il popolo in tutti questi discorsi. L'uomo. Era anche apprezzabile, insomma, l'intervento. Dice: ma noi che ci svegliamo, andiamo a lavorare tutti i giorni, dove siamo noi nei discorsi che fate di future libertà? E Marco da Bergamo dice: beh, insomma, se questa è la moralità della politica, passare, cambiare casacca in nome di che cosa? Di un posto. L'errore è che allora mettiamo mettiamo un po' i pezzi sulla scacchiera. Quando si fa analisi politica, non bisogna dare giudizi morali, perché altrimenti parti con quello che gli americani chiamano bias, cioè pregiudizio. E il pregiudizio ti offusca la mente, cioè non ti fa vedere che cosa succede realmente sulla scacchiera. Che cosa sta succedendo? Noi abbiamo un doppio piano, prendiamo l'azione di Fini, cerchiamo di analizzarla freddamente. Noi abbiamo un piano parlamentare, no? Su questo piano, mi dispiace, ma se lo dobbiamo giudicare freddamente, il percorso di Fini è un disastro. perché se non era necessario fare il gruppo, allora non lo faceva, no? E nel momento in cui lo perdi è evidente che tu ti sei depotenziato e hai un'arma in meno nel gioco parlamentare. Accidenti. Non bisogna aver studiato geopolitica Princeton per capirlo. Questo è un primo punto. Quindi l'azione parlamentare è fortemente indebolita. Ed è una cosa seria, perché se il governo dura, se dovesse durare, io non sono convinto che possa durare così, ma mettiamo che duri, noi abbiamo di fronte, dunque, se dura, facciamo questa ipotesi, una prospettiva 2013. Sì. Sapete cosa vuol dire arrivare dal 2011 al 2013 senza un gruppo parlamentare, probabilmente avendo grandi difficoltà anche alla Camera? Un paio d'anni di arrancamento. Un paio d'anni senza potere, senza niente, perché il potere non è... Uno dice, vabbè, ma noi siamo già passati all'opposizione. No. Perché la perdita di potere non è solo quella, sempre, se ragioniamo freddamente e senza pregiudizio, è anche non avere il gruppo, è anche non avere il finanziamento del gruppo, è anche non avere dei segretari che ti fanno alcuni lavori, è anche non avere le auto che ti scarrozzano da una parte all'altra e ti rendono la vita tutto più comoda, la vita politica, tutto ciò i finanziamenti, l'apparato, l'organizzazione. Il gruppo serve a questo, se no perché cosa lo facevano? Per guardarsi allo specchio e dire abbiamo il gruppo, siamo belli. Ma questo sì. Allora, questo non è, e questo non è moralmente accettabile o inaccettabile. È così, mi seguite? Poi la questione del paese. Senza il gruppo fai attività politica con più difficoltà. Ti sposti anche, hai meno soldi per portarti. Hai più difficoltà a trovare i finanziatori. Insomma, diciamo, si arranca. No, ma io su questo, siccome devo concludere, si arranca. Devo dire, onorevole Perina, sempre il Corriere che parla di questo disgusto di Fini, di Verdini, dice anche che il prossimo direttore del Secolo d'Italia che verrà deciso a giorni potrebbe essere Buttafuoco. Insomma, la danno già per dimissionata, direttore Perina. Che dobbiamo dire? Forse, come tanti analisti, che la gran parte del gruppo di Fini è composto da persone che hanno fatto politica per decenni senza occupare posizioni di potere. No, ma io non ripartiamo su questo, sennò devo chiudere. Ma la danno già per dimissionata. Questa è una precisazione che io devo fare. La faccia, ma la danno per dimissionata ormai come direttore. Vedremo. Insomma, cioè, a un certo punto lo devo dire loro. Ho chiesto notizie e la danno per dimissionata. Io non credo all'ipotesi Buttafuoco. Buttafuoco non solo è un amico, ma è un grande giornalista di destra che non credo che verrà a fare il commissario politico di un giornale libero per conto terzi. Quindi, francamente, penso che l'ipotesi sia risibile. Va bene, mi devo fermare. Grazie a Flavia Perina e Mario Secchi in redazione, con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi, c'è Peter Bescapè in regia, la linea va Oscar Giannino e noi ci troviamo domattina alle 7:20. Andate su Facebook 24 in numero spazio mattino, perché c'è chi dice che non ci trova, è semplice, 24 mattino su Facebook.